Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Risico bancario offerta da 4,9 miliardi di Intesa San Paolo per UBI Banca, i titoli in borsa festeggiano. Governo in bilico, oggi si vota la fiducia sul mille proroghe, dalle concessioni autostradali ai monopattini equiparati alle bici. Coronavirus, crescono i contagi sulla nave da crociera Diamond, la Farnesina tutto pronto per evacuare gli italiani. Nuova inaugurazione agli scavi di Pompei, riapre dopo 40 anni al pubblico la Domus degli Amanti. E in questa puntata carenza idrica e allerta per il caldo e le piogge scarse, dicono i consorzi di bonifica, cercheremo di capire quanto è grave la situazione. E dopo il caso di Pisa, cosa prevedono le norme sulla airbag anteriore e il seggiolino per i neonati? Ieri manifestazione a Bologna per Zaki, a effetto giorno l'appello dell'Università di Bologna per la liberazione dello studente egiziano. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. I titoli di oggi li avete appena sentiti, nei prossimi 15 minuti le principali notizie, poi dalle 13:15 i nostri approfondimenti, ma cominciamo naturalmente dalla notizia dell'offerta di Intesa San Paolo, primo gruppo bancario italiano nei confronti di UBI Banca, che è la quarta banca in Italia. I titoli oggi mettono a segno in questi minuti proprio UBI Banca un più 22,7%, Intesa San Paolo più 2,4%, un netto rialzo, segno dunque che il mercato approva l'offerta di acquisto. Vogliamo dar vita a una nuova realtà leader nella crescita sostenibile e inclusiva, ha detto stamattina Carlo Messina, numero uno di Intesa. Nascerebbe un gruppo europeo da 3 milioni di clienti, il settimo gruppo europeo, ma sentiamo. Vi abbiamo sorpreso lanciando questa offerta pubblica di scambio su UBI Banca. È l'unica opportunità per far nascere un leader europeo, creerà valore per tutti gli stakeholder. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, ha presentato questa mattina l'offerta da 4,9 miliardi di euro su UBI. Abbiamo scelto UBI Banca perché è la miglior banca di medie dimensioni in termini di bilancio, dedizione all'economia reale e sostenibilità. È una piccola Intesa San Paolo, ha detto Messina. Sul fronte dei numeri, previsto sul 2020 un dividendo di 0,2 euro per azione, attesi 340 milioni di sinergie sui costi per il personale, grazie a 5.000 uscite volontarie, stimate 2.500 assunzioni di giovani. Il numero uno d'Intesa ha annunciato inoltre ulteriori 30 miliardi di credito in 3 anni per l'economia reale e 10 miliardi in più per la green economy. Speriamo che il management di UBI consideri amichevole questa operazione, ha concluso Messina. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un'offerta clamorosa che, se andrà a buon fine, è destinata a ridisegnare la geografia del credito in Italia. A lanciarla è Intesa San Paolo, il principale gruppo bancario domestico, che ha fatto un'offerta carta contro carta su UBI, quarta realtà italiana per attivi e terza per capitalizzazione. L'offerta, non ostile ma neanche concordata, valorizza UBI 4,9 miliardi, ovvero il 28% in più rispetto ai valori di venerdì 14 febbraio. UBI sarà integrata, delistata e in parte spacchettata. Il progetto prevede infatti che 4-500 filiali di UBI vadano a Biper, che a sua volta è pronto a varare un aumento di capitale da 1 miliardo. Ora si vedrà quale sarà la reazione degli azionisti dell'ex popolare a una proposta che certo è allettante per prospettive e remunerazione attesa. Il deal consentirà di creare il settimo gruppo bancario in Europa per attivi, con utili stimati a oltre 6 miliardi nel 2022. Di certo, con una mossa sorpresa, Intesa si getta nel risico bancario per rafforzare la sua leadership in Italia e consolidare la forza in Europa, dove è il terzo gruppo per capitalizzazione. Luca Davi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la politica, con le fibrillazioni tra Italia Viva e gli altri alleati di governo, il PD, il Movimento 5 Stelle e l'EU, con retroscena che danno Renzi intenzionato a far cadere il governo Conte. C'è una dichiarazione di pochi secondi fa che in effetti conferma questa sensazione. Dice Renzi: il governo può rinunciare ai voti di Italia Viva, ma noi non possiamo rinunciare alle nostre idee. e manca ancora un accordo dal punto di vista dei contenuti sulla modifica dei decreti sicurezza a cui sta lavorando il ministro dell'interno Lamorgese. Oggi però i punti all'ordine del giorno, i banchi di prova sono altri due: il voto alla Camera sulla fiducia posta dal governo al decreto mille proroghe, che è una specie di legge di bilancio bis, e poi il voto al Senato su DDL intercettazioni. Sentiamo. Sarà nell'emiciclo di Palazzo Madama il test del governo dopo giorni di fibrillazioni. La prova sarà sulle intercettazioni, un terreno su cui Italia Viva potrebbe anche pensare allo strappo e dove il governo porrà la fiducia. Matteo Renzi interviene: l'esecutivo può rinunciare ai nostri voti, ma noi non rinunciamo alle nostre idee. Se vogliono continuare con i dispettucci, facciano pure. E sulla ricerca di una nuova maggioranza da parte del premier Giuseppe Conte, Ettore Rosato interviene a 24 mattino. Sta tutti i giorni cercando di trovare una maggioranza alternativa. Ahimè, non ci riesce, ma le richieste che arrivano ai senatori di formare il gruppo del presidente Conte mi sembra che siano all'ordine del giorno. Dai Dem parla Andrea Marcucci: sbagliato pensare di sostituire Italia Viva. Conte non deve cadere e bisogna lavorare tutti insieme. Ma i toni di Renzi sono sbagliati e sulla prescrizione c'è troppa rigidità da parte di Bonafede. Mentre un federissimo di Renzi confessa al Corriere della Sera che il leader d'Italia Viva vuole sostituire Conte, magari con il suo miglior nemico Dario Franceschini. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le notizie sul coronavirus: adesso saranno circa 500 i passeggeri che domani lasceranno la nave da crociera Diamond Princess in quarantena, come sapete, nel porto giapponese di Yokohama. Anche la Farnesina fa sapere che è tutto pronto per l'evacuazione degli italiani che sono a bordo della nave. Continuano a crescere i casi di contagio e anche le vittime in Cina intanto. C'è un problema navi da crociera per il coronavirus fuori dalla Cina. Sulla Diamond Princess, ferma da 2 settimane in Giappone, si sono registrati nelle ultime 48 ore 169 casi e i contagiati sono arrivati a 454 su 3.200 persone a bordo. Dopo gli Stati Uniti, anche l'Italia sta organizzando il rimpatrio e poco fa si è saputo che uno dei 35 italiani presenti sulla nave è risultato positivo al test del coronavirus. Gli italiani dovranno fare la quarantena di 14 giorni. Poi c'è la nave americana Westerdam. Nei giorni scorsi 1.200 passeggeri sono sbarcati in Cambogia senza controlli sanitari particolari e poi è emerso il caso di una 83enne americana contagiata. 5 dei passeggeri sbarcati sono italiani, ma il Ministero della Salute spiega che sono tutti monitorati e l'unico rientrato in Italia è in isolamento a casa. Intanto gli ultimi dati segnalano a livello mondiale un numero di contagiati salito a oltre 73.300 e quasi 1.900 i morti, ma i nuovi casi giornalieri sono in calo e i guariti sono oltre 13.000. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia dalla Turchia: il tribunale di Istanbul ha assolto tutti gli imputati nel processo contro alcune delle figure di maggior spicco delle proteste antigovernative di Gezi Park. Ricorderete proteste che furono nell'estate del 2013, assolto anche il noto imprenditore e filantropo turco Osman Kavala. Incarcerazione preventiva da oltre 2 anni, rischiava l'ergastolo. Alitalia restringe ancora il perimetro della sua attività. Da aprile infatti taglia 2 nuove rotte di lungo raggio: Roma-Seul e Roma-Santiago del Cile. Questo mentre oggi si svolge l'incontro su Air Italy tra il governatore della Sardegna, preoccupato per le ricadute sul turismo ma anche sulla Sardegna stessa dal fallimento di Air Italy, incontro tra il governatore sardo e il ministro dei trasporti. Sentiamo. Un ridimensionamento quello di Alitalia per i prossimi mesi, che riguarderebbe rotte e vettori. L'azienda starebbe pianificando la chiusura da aprile di 2 tratte internazionali, Roma-Seul e Roma-Santiago del Cile. Inoltre, nel corso dell'anno sarebbe prevista l'uscita progressiva dalla flotta di 2 A330 e di un Boeing 777. Questa azienda è impossibile rimetterla in piedi se non vengono rinnovati i contratti di leasing, fanno sapere i sindacati, che confermano lo sciopero di martedì e tornano a chiedere una convocazione convocazione al commissario Leo Grande. Fonti di Alitalia fanno notare tuttavia che sul fronte delle rotte internazionali non si può parlare di ridimensionamento, visto che il network di lungo raggio verrà arricchito a marzo dal collegamento tra Roma e Tokyo Haneda e a giugno aprirà la Roma-San Francisco con 3 voli settimanali. Capitolo Air Italy poi, la società continua a smentire di aver inviato le lettere di licenziamento. Le preoccupazioni per i 1.450 lavoratori coinvolti nell'incontro tra la ministra dei trasporti De Micheli e il governatore della Sardegna Solinas. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi inizia la settimana della moda milanese, uno degli eventi economici più importanti dell'anno per quanto riguarda il Made in Italy. 1.000 le presenze in meno che si annunciano a causa del coronavirus e i cinesi saranno in collegamento web. China, we are with you. Milano Moda Donna si apre sotto il segno della solidarietà nei confronti della Repubblica Popolare Cinese, impossibilitata a partecipare alla manifestazione a causa dell'emergenza coronavirus. Una campagna con cui Camera Nazionale della Moda si impegna a far vivere l'esperienza della Fashion Week anche a distanza. Sfilate trasmesse in live streaming, canali dedicati e contenuti speciali creati con la collaborazione delle piattaforme social cinesi. Un migliaio le defezioni tra buyer e professionisti, assenze di peso per un paese che vale un terzo del fatturato del lusso. Assenti 7 degli 8 stilisti cinesi emergenti, sostenuti dall'incubatore di Camera della Moda, che presenteranno comunque le loro collezioni via web. E mentre gli operatori cercano di scongiurare l'incubo, sedie vuote alle sfilate, a fare notizia è anche la donazione di Dolce e Gabbana a favore di Humanitas University, impegnata nella ricerca sul coronavirus con uno studio coordinato dal professor Alberto Mantovani. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dedico questo riconoscimento a mio padre, l'uomo più importante della mia vita, ucciso per la colpa di essere nato. Così la senatrice Liliana Segre, al termine della cerimonia alla Sapienza, che le ha conferito il dottorato honoris causa in storia dell'Europa. Segre poi ha aggiunto: le polemiche le ignoro. E adesso invece parliamo di un importante nuovo traguardo raggiunto dagli scavi archeologici di Pompei, perché oggi vengono aperte 3 domus che erano chiuse da molto tempo ai visitatori. È un gioiello unico Pompei, portato alla luce nel 1933, fortemente danneggiato dal terremoto dell'Irpinia. Ora, dopo 40 anni, nel sito archeologico campano riapre finalmente al pubblico la Casa degli Amanti, la sola di cui si è conservato quasi completamente il secondo piano. Ad annunciarlo è stato il ministro della Cultura Franceschini in visita a Pompei per la fine dei lavori di messa in sicurezza avviati nel 2014 col grande progetto finanziato per la maggior parte con fondi europei. Con l'occasione riaprono 3 nuove domus appena restaurate. Oltre a quella degli Amanti, anche la Casa della Nave Europa, che prende il nome da un grande graffito inciso su una delle sue pareti, e la Casa del Frutteto con i suoi cubicoli floreali, uno dei più alti esempi di pittura da giardino della città antica. Questa è una storia di rinascita e di riscatto, un modello per tutta Europa nella gestione dei fondi comunitari, ha dichiarato il ministro Franceschini. Nell'arco di 5 anni, infatti, un po' alla volta, si è riusciti a dare un senso al finanziamento da 105 milioni di euro, di cui 75 europei, stanziato per salvare dal degrado un patrimonio dell'umanità che non ha eguali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:13 minuti, effetto giorno fa una pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dalla carenza idrica segnalata dai consorzi di bonifica in queste ore, quindi laghi, fiumi, invasi di ogni genere sono quasi a secco. Cercheremo di capire quanto è grave la situazione. 349-238-6666 per i vostri messaggi e ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Effetto Giorno. Buongiorno, queste le notizie di oggi. Risico bancario, i titoli in borsa festeggiano l'offerta da 4,9 miliardi di Intesa San Paolo per UbiBanca, previsti anche 5.000 esuberi, 2.500 assunzioni, 500 filiali del nord verso BiperBanca. Governo in bilico, oggi si vota la fiducia sul mille proroghe, dalle concessioni autostradali ai monopattini equiparati alle bici. Coronavirus, continuano a crescere i nuovi casi sulla nave da crociera Diamond ancorata in Giappone. La Farnesina dice tutto pronto per evacuare gli italiani. A Pompei riapre dopo 40 anni al pubblico la Domus degli Amanti. Inverno caldo e piogge assente da 40 giorni in molte regioni del nord. Dal nord alla Puglia è allerta per la carenza idrica. Siamo a un passo dal rischio siccità, spiegano i consorsi di bonifica. Tra poco. Le 13:16, di nuovo buongiorno e ben ritrovati cari ascoltatori da Alessio Maurizi. Questi titoli di oggi, come avete sentito, parliamo anche di questa allerta per la carenza idrica nel nostro paese. E in effetti, insomma, da diversi giorni molte città del nord soprattutto si nota l'assenza della pioggia. Pensate che a Torino non piove da 60 giorni esatti, anche a Genova e a Milano accade più o meno da 40 giorni che, a parte qualche piccola pioggia, non ci siano stati dei veri e propri temporali. Allora facciamo il punto su questo tema della carenza idrica con Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione Nazionale Consorzi di Tutela della Gestione del Territorio e delle Irrigazioni. Benvenuto. Buongiorno. Allora, quanta acqua manca all'appello? Partiamo da questo dato: nei laghi, nei fiumi, negli invasi, nelle dighe in tutta Italia. Sì, purtroppo, come ha ricordato lei, sono parecchi giorni che non piove e questo sta caratterizzando il nostro inizio primavera, purtroppo in tutto il paese, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. Penso alla situazione più critica alla Basilicata, ma anche alla Puglia, dove abbiamo dei bacini che contengono l'acqua per l'irrigazione, non solo, anche per l'uso umano, con situazioni che siamo sotto il 50% rispetto all'anno precedente. Oltre questi abbiamo una situazione a macchie di leopardo in tutto il paese. In Sicilia, in Umbria stiamo già iniziando ad avere le prime richieste appunto di irrigazione. Questo dimostra quanto è importante avere a disposizione l'acqua anche per delle culture le prime richieste di irrigazione, che cosa si intende? Si intende che stanno iniziando gli agricoltori a chiedere l'acqua anche per fare germogliare, per far iniziare una fase importantissima al grano, che è una cultura che in genere il grano, una cultura invernale che non viene assolutamente irrigata, ma purtroppo negli ultimi 10 anni abbiamo assistito per ben 3 volte in alcune areali del nostro territorio, ma anche del nostro paese, ma anche nel nord Italia, doverlo irrigare per arrivare alla maturazione, cioè, poi di giugno. Il terreno è troppo secco e quindi non si irrigano queste coltivazioni, che normalmente in inverno non ne avrebbero bisogno, si rischia invece che appassiscano, che muoiano, che i germogli muoiano. Muoiono e quindi si perde la produzione, in particolare in quegli areali dove le semine si sono ritardate a causa, se vi ricordate, delle eccessive piogge di novembre e dicembre che hanno caratterizzato purtroppo tutto il nostro paese. Questa è una beffa, no? Perché eccessive piogge a novembre e adesso, proprio per il caldo e per le scarse piogge che ci sono state tra gennaio e febbraio, siamo in questa situazione. Senta, si tratta di un dato anomalo, cioè io leggo che in base ad alcune misurazioni si tratterebbe della siccità più grave, anche se ancora voi giustamente non volete utilizzare il termine siccità, parliamo di carenza idrica. Certo. Per fortuna siamo ancora un passo prima, però il dato, diciamo, sarebbe il più significativo dal 1878 a questa parte. E a cosa corrisponde purtroppo questo è dato? Così corrisponde sia alla carenza di acqua, ma soprattutto alle temperature anomale, perché se lei pensa alle temperature che stiamo vivendo in questi giorni in tutto il nostro paese, che stanno facendo fiorire le pesche, stanno facendo fiorire tutte le culture che in genere fiorivano alla fine di marzo, questo aumenta non solo il fabbisogno di acqua per aiutare queste culture, ma soprattutto il rischio di poi perdere queste culture a causa magari di gelate o di ritorni di freddo improvvisi. Per quanto riguarda il dato anomalo, è un dato anomalo quello di quest'anno, ma vi vorrei ricordare a tutti che abbiamo parlato anche l'anno scorso, fino ai mesi di marzo, di forte crisi idrica, dove avevamo tutti i laghi alpini. Addirittura all'inverso di quest'anno avevamo tutti i laghi alpini, il lago di Como, il lago Maggiore, il lago di Garda, con forti carenze, addirittura che mancavano quantità di acqua pari al 50, addirittura 70% in alcuni laghi. Questo dimostra che cosa? Dimostra che il rischio dei cambiamenti climatici stanno sempre più avvicinandosi nelle annate. Purtroppo viviamo, come abbiamo detto prima, 6 mesi che gridiamo allerta per la troppa acqua e 6 mesi che gridiamo allerta per la mancanza di acqua. Questo dimostra che necessita in un paese urgentemente, come noi diciamo da diversi anni come consorzio di bonifica, un piano di investimenti che metta in sicurezza i nostri territori. In che senso li mette in sicurezza? Noi siamo un paese che oggettivamente piove. Ecco, scusi, ancora... le faccio solo un inciso, no, Vincenzi, perché lei è già arrivato in qualche modo alle conclusioni, perché in effetti quello che ci si domanda adesso è se il nostro paese ha un piano B, cioè ha un piano, come dire, per fare fronte a questa carenza idrica, se siamo preparati, se siamo organizzati, diciamo, in questa fase di emergenza. Lei stava parlando di investimenti strutturali e quindi si riferisce a una risposta, diciamo, di sistema, contro la dispersione idrica, per il recupero delle acque, eccetera eccetera. E quindi la domanda è duplice: cosa fare, diciamo, in generale, ma anche se in questa fase il nostro paese è in grado, operatori pubblici e privati, di far fronte a questa carenza idrica? Allora, noi come mondo dei consorzi di bonifica è da diversi anni che consigliamo ai nostri agricoltori, attraverso anche degli strumenti, quindi grazie alla tecnologia e alla ricerca, di utilizzare al meglio la risorsa idrica, dando un consiglio irriguo che permette di risparmiare, con dei dati certi, questo qua lo diciamo, oltre il 25% della risorsa. Quindi questo è il primo messaggio che dobbiamo dare a tutti, di utilizzare al meglio la risorsa, di non pensare che sia una risorsa infinita, ma che sia una risorsa da conservare e da trattenere nel migliore dei modi. In un piano che deve essere obbligatoriamente però veloce, perché purtroppo i cambiamenti climatici stanno accelerando la loro azione e il loro impatto sui nostri territori, occorre un piano infrastrutturale straordinario, da un lato di messa in sicurezza del territorio rispetto alle alluvioni e dall'altro piano di messa in sicurezza per la carenza idrica. Senta, dicevo prima, siamo in un paese del Mediterraneo dove ancora oggi però piovono oltre 1000 millimetri di pioggia all'anno. E altrettanto siamo il paese che ne trattiene meno, solo il 10% di questa acqua viene trattenuta nei bacini, che per poi essere distribuita nel momento del bisogno, il resto va a mare. Io credo e noi crediamo che occorra un piano importante per trattenere l'acqua ad uso plurimo, non solo per l'agricoltura ma per l'uso umano, per tutti gli altri usi che vengono utilizzati, perché questo sarebbe un messaggio importante non solo al territorio ma anche all'ambiente. Senta Vincenzi, glielo giro un messaggio di un ascoltatore al 3492386666, perché in tempo reale lei in pratica ha già risposto. È una beffa che abbia piovuto a novembre, adesso siamo all'asciutto, però ci sono più ascoltatori che dicono: ma fino a ieri si stavano lamentando e piangevano perché c'era troppa pioggia. È proprio questo il nostro problema. Noi viviamo in un paese dove lamentiamo troppa pioggia, paghiamo i danni e contiamo purtroppo dei disastri, e dall'altra parte non abbiamo le infrastrutture adatte, adeguate a quelle che sono il trattenimento di quella risorsa per poi distribuirla nel momento del bisogno. In un momento, lo ripeto, dove i cambiamenti climatici, com'è caratterizzato il nostro clima, che sono cambiate le piovosità. Oggi la piovosità ce l'abbiamo in momenti dell'anno dove magari le culture non ne hanno fortemente bisogno, e magari quando ne hanno bisogno non piove e quindi non abbiamo l'acqua a disposizione. Era giusto quindi chiarirlo. Certo, Vincenzi, perché insomma non è colpa vostra, degli operatori, degli agricoltori, se a novembre piove troppo e adesso piove troppo poco. Anzi, bisogna semmai, questo è il senso anche di questa intervista, quello che rimane, insomma, organizzarsi, cambiare anche il modo in cui si gestisce l'acqua, proprio perché eventi come questi, inverni come questi, sono probabilmente, diventeranno forse la norma, quantomeno lo sono in questa fase. Quindi questo è quello che possiamo fare: cambiare il modo in cui si gestisce l'acqua. Grazie intanto al presidente dell'Associazione Nazionale Consorzi di Tutela e Irrigazione. Grazie a voi. Eccoci qua, alle 13.24 minuti invece apriamo una pagina di notizie internazionali, perché torniamo sulla questione delle primarie americane con l'entrata in scena di Bloomberg. Cambiano gli equilibri, l'analisi di Daniele Biacchessi. Per le primarie democratiche lo scontro sembra ormai scritto e sarà quello che opporrà il socialista Bernie Sanders al miliardario Mike Bloomberg. Sabato si vota in Nevada e Sanders è avanti di larga misura sull'ex vicepresidente Joe Biden e la senatrice Elizabeth Warren. L'unica preoccupazione di Sanders è il miliardario Mike Bloomberg, perché è in forte ascesa nei sondaggi. Tutto accade a sole 2 settimane dal Super Tuesday del 3 marzo, quando andranno al voto 14 stati, oltre alle Samoa americane, ai seggi all'estero. Ci si aggiudica 1.357 dei 3.979 delegati, di cui 415 in California, 228 in Texas, i due stati più abitati. Sanders è avanti in California, ma Bloomberg è in testa in Arkansas e al secondo posto in Texas. Gli investimenti di Bloomberg sono impressionanti: 400 milioni di dollari gli spot. In pochi credono che possa conquistare la maggioranza dei delegati, ma se non ci riuscirà nemmeno Sanders, allora si terrà la cosiddetta Brokered Convention, dove dalla seconda votazione vengono avviati i negoziati per raggiungere il quorum. Il futuro è imprevedibile, ma Bloomberg potrebbe giocarsi le sue carte. Ecco noi alle 13:26 minuti, Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore. Ciao Maurizio, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, per commentare insieme, cercare di, come dire, di fare anche un po' di informazioni di servizio, questo caso di cronaca terribile, tragico, che è accaduto a Pisa domenica pomeriggio, una famiglia di origine albanesi ad un incrocio all'interno della loro automobile avevano un bambino, un neonato di appena 2 mesi sul classico ovetto sul sedile anteriore. Per un tamponamento è esploso l'airbag e, come sappiamo, purtroppo il bambino è morto a causa dell'impatto con l'airbag. Ora, naturalmente, su tutti questi casi di cronaca bisogna stare attenti per capire quello che può essere successo, quello che può non essere stato fatto. Per esempio, è probabile che il PM iscriva nel registro degli indagati, leggiamo dai giornali, il padre del bambino di 39 anni, proprio perché lo avrebbe messo in questa condizione. Perché, Maurizio Caprino, che cosa dicono le norme del codice della strada su questo aspetto? Perché la pericolosità degli airbag per i neonati, per i bambini molto piccoli, è acclarata, ma forse non tutti conoscono esattamente le norme. Sì, le norme sono norme innanzitutto tecniche che trovate, ricordate, su ogni auto, anche se con figure non chiarissime. Comunque dicono che laddove c'è un seggiolino sul sedile anteriore va disattivato l'airbag relativo al sedile anteriore stesso. Il problema è che a volte la disattivazione dell'airbag non è così semplice, perché molto spesso la si riesce a fare girando la chiave, mettendo proprio la chiave di avviamento dell'auto in una speciale serratura che sta nella plancia. Altre volte invece nella plancia c'è proprio una sorta di manopolina che si deve girare, però a volte questo sistema di disattivazione è optional e magari ci si dimentica di ordinarlo all'atto dell'acquisto, anche perché magari spesso si compra un'auto usata e quindi ovviamente il precedente proprietario non aveva in programma di avere figli, insomma. Quindi sono cose a cui bisogna fare attenzione e sicuramente, ecco, per aiutarsi bisogna per esempio ricordarsi che ogni qualvolta si appoggia un oggetto oppure si siede una persona sul sedile a fianco al guidatore, lampeggia brevemente nel cruscotto una luce che dà conto che il sensore di occupazione del posto si è attivato, quindi l'airbag è pronto a funzionare in caso di necessità. In quel momento non ci deve essere un seggiolino nel modo più assoluto, perché gli airbag sono fatti per proteggere gli adulti e non i bambini sul seggiolino. Ecco, Maurizio Caprino, ti chiedo questo, no? Perché io personalmente sono rimasto colpito, come tutti ovviamente, addolorato, anche scioccato. Io sono padre di 2 bambine, io devo dire la verità, lo ammetto qui davanti io a tutti gli ascoltatori, io non conoscevo questa norma, normalmente non ho mai messo le mie bambine davanti sul sedile anteriore, però ecco, io non conoscevo questa norma, non credo di essere l'unico, sarò forse l'unico, ecco, magari speriamo di essere l'unico in tutta Italia. Però ti voglio chiedere questo: com'è possibile che, tra il fatto che forse questa norma non è molto conosciuta, tra il fatto che disattivare questi airbag non è così semplice, non è alla portata di tutti, se uno magari non è il proprietario dell'autovettura e non conosce il meccanismo, il fatto che in alcuni casi non si possa proprio disattivare, cioè non dovrebbe esserci una previsione diversa dal punto di vista normativo o dei costruttori delle auto per evitare una fatalità di questo genere? Incredibile, non lo so. Ma è possibile, però dobbiamo considerare che se anche avessimo una norma, la mettessimo adesso, in questo preciso momento, dovremmo aspettare 20 anni perché abbia un pieno effetto, nel senso che chiaramente tutto il parco circolante continuerebbe ad essere equipaggiato esattamente come lo è adesso. Tra l'altro tu facevi giustamente riferimento all'impossibilità di disattivare l'airbag, nel senso che appunto quando è un optional e non viene ordinato come optional il meccanismo di disattivazione, sembra che non ci sia via d'uscita, però in realtà una via d'uscita c'è, è complicata, bisogna andare in un'officina a farselo disattivare per poi farlo riattivare quando non c'è più da trasportare un bambino, però insomma una via d'uscita in qualche modo c'è. In ogni caso bisogna proprio ricordarsi, bisogna soprattutto dare un senso a quelle figure che noi vediamo ogni momento, ogni volta che entriamo in auto. In questo caso c'è una figura che praticamente è la figura di un airbag con un seggiolino e una grande croce che dice non farlo. Airbag e seggiolino, non fatelo. Quindi bisogna resistere alla tentazione di mettere il neonato di fronte per poterlo controllare, perché è ovvio che questo accade soprattutto quando uno guida e è da solo e il neonato dietro ha timore di metterlo perché non riesce a controllarlo, si strozzerà magari con un rigurgito eccetera, quindi bisogna resistere a questa tentazione. Sì, bisogna resistere all'ansia e poi anche manualmente bisogna ridare un senso alle azioni che facciamo, perché questo segnale che c'è sull'auto in realtà sì, a volte è poco visibile, ma a volte è visibile e però siccome noi usiamo l'auto tutti i giorni non ci facciamo più caso, un po' come un posacenere che abbiamo a casa, insomma non ci dice più nulla, invece quelle lì sono figure che sono fatte per farci pensare una cosa e insomma lasciamo i nostri soliti pensieri per una volta, insomma quando entriamo in auto pensiamo a guidare e a usare l'auto in maniera attenta e consapevole, bisogna leggersi il libretto di uso e manutenzione, perché il libretto di uso e manutenzione spende paginate su queste cose, ma ovviamente non se le legge nessuno. Sì. E l'auto però purtroppo non è come un forno, l'auto può fare più danni di un forno. Quindi se non leggiamo le istruzioni del forno probabilmente al massimo ci bruciamo, invece sull'auto purtroppo si muore. Certo, attenzione e concentrazione. Grazie Maurizio Caprino per averci ricordato le norme, ma anche per averci ricordato le norme di comportamento. Io continuo a pensare che una fatalità come questa prevista, resa prevedibile da scarsi accorgimenti tecnici come questi, cioè possibilità di non disattivare l'airbag, difficoltà di disattivare l'airbag, sia comunque un qualche cosa che dovrebbe far riflettere per stimolare a migliorare e a cambiare configurazione delle auto, forse, ma anche qualche aspetto normativo. Credo però la configurazione delle auto e il tema degli airbag sicuramente. 13:33 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, informazioni di borsa, titoli, i nostri approfondimenti, ripartiremo nella prossima parte con l'appello rilanciato ieri dalla città di Bologna, che ha manifestato per la liberazione dello studente egiziano Zaki. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Banche, come avete sentito, i titoli in borsa festeggiano l'offerta da quasi 5 miliardi di Intesa San Paolo per UbiBanca. Governo in bilico, oggi si vota la fiducia sul mille proroghe, dalle concessioni autostradali ai monopattini. Coronavirus, crescono i contagi e le vittime in Cina, la Farnesina tutto pronto per evacuare i 35 italiani che sono a bordo della Diamond Princess. Riunione Ecofin di Bruxelles, tra pacchetto digitale, riforma del patto di stabilità, a effetto giorno l'intervista al commissario Paolo Gentiloni. A Pompei riapre dopo 40 anni al pubblico la Domus degli Amanti. Zaki, cresce la mobilitazione internazionale per chiedere all'Egitto la liberazione dello studente arrestato al Cairo. 13:40 minuti, di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno. Questi titoli di oggi sulla notizia di cui abbiamo parlato in chiusura del primo blocco di Effetto Giorno, cioè le norme che cosa prevedono sulle airbag in caso di bambini neonati seduti messi sul sedile anteriore delle autovetture. Dopo il caso terribile di cronaca a Pisa ci sono tantissimi messaggi, veramente molti. Io vado velocemente perché non abbiamo molto tempo. Leggo intanto questa ascoltatrice che dice: noi avevamo una macchina vecchia, per disattivare l'airbag siamo andati dal meccanico che ha tagliato i fili. Giustissimo. E poi un altro che dice: la norma sull'airbag che il giornalista non conosce c'è da più di 20 anni. È vero, io ho ammesso la mia ignoranza, cioè a volte anche ammettere che uno una cosa non la sa fa parte, no, del fatto che siamo tutti umani e possiamo sbagliare. E io questa cosa non la sapevo, non la ricordavo, avrei potuto sottovalutarla. Ho anche detto che non, istintivamente non ho mai messo, né io né mia moglie, che sicuramente invece questa cosa la sa sicuramente, non abbiamo mai messo i bambini davanti, sul seggiolino davanti, sempre dietro. Tant'è vero che un ascoltatore scrive: scusate, ma non basterebbe vietare di mettere i bimbi sotto i 36 mesi davanti? Questa non è sbagliata, è corretta come posizione. Invece oggi questo non è vietato, si possono mettere i bambini davanti, ma quello che io ho detto è semplicemente questo: essendoci questo rischio, persone che non sanno disattivare l'airbag, oppure l'airbag non è disattivabile, allora forse finché le case automobilistiche non si adeguano, allora tanto vale vietare il fatto di mettere i bambini piccoli davanti. Forse è una modesta proposta. 13:42 minuti, è il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore, che naturalmente oggi analizza la fusione, anzi l'acquisizione, di Intesa San Paolo nei confronti di UbiBanca. Sentiamo. Il punto di Alberto Orioli. La mossa di Intesa San Paolo su UbiBanca ha sorpreso tutti, anche perché in questa Italia che ha bisogno di avere banche di stazza europea, si pensava che le aggregazioni sarebbero arrivate o con fusioni con istituti esteri oppure dal basso, coagulando banche di media e piccola grandezza in cerca di sopravvivenza, magari proprio attorno a qualche soggetto in grado da fare da polo aggregatore. Era il destino che fino a ieri si ipotizzava per UbiBanca, in qualche caso accreditato come pivot per far uscire dalla lunga quaresima il Monte Paschi di Siena, o magari per riunire anche Biper o Banco BPM. Invece la mossa di Carlo Messina, che è la D di Intesa San Paolo, ha cambiato la strategia e ora la prima banca del paese incorpora la terza per dar vita alla settima banca europea. È importante aumentare la stazza, aiuta a gestire meglio i rischi e aumentare gli investimenti sul territorio. Il credito sta cambiando pelle, il futuro sono il fintech e la sostenibilità. Il mondo dei tassi negativi ha dimezzato i margini di guadagno per le banche e a questo fine sarà importante anche il completamento dell'Unione Bancaria Europea, finora bloccato, come sappiamo, dai tedeschi. Ora, sapere di avere un campione del credito di stazza europea può aiutare a far cambiare orientamento anche ai nostri partner più riluttanti. Tredici e 43 minuti, cari ascoltatori, torniamo a parlare della vicenda di Zaki, lo studente egiziano Patrick Zaki, arrestato il 7 febbraio scorso al Cairo, mentre rientrava in Egitto da Bologna, dove si trova per studiare un master sui diritti umani, sui diritti gay LGBT. È arrestato, quindi in stato di fermo da 11 giorni, avrebbe subito delle torture, questo è quello che denunciano i familiari, lui stesso, per chi ha avuto modo di parlarci. Le associazioni internazionali chiedono all'Egitto di fermare questa ennesima violenza di Stato nei confronti di un cittadino detenuto senza un giudizio, senza un processo avviato, con diritti garantiti, in questi casi ridotti veramente al minimo. E allora ieri c'è stata una manifestazione a Bologna, la città che ospitava Zaki. È con noi il prorettore dell'Università di Bologna, Mirko Degli Esposti, benvenuto. Grazie, buongiorno a lei. Allora, senta, Degli Esposti, intanto cominciamo a spiegare anche agli ascoltatori perché, di che cosa è accusato, perché Zaki è accusato di terrorismo, i media egiziani lo attaccano direttamente per i suoi orientamenti, o quantomeno orientamenti sessuali non dichiarati, ma per il fatto di essere un sovvertitore addirittura dell'ordine morale, perché studiava questo master sui diritti, per esempio, delle persone omosessuali. Quali sono le accuse mosse in confronti di Zaki? Noi le accuse precise non le conosciamo. Inizio per dire che Patrick è ancora un membro della nostra comunità e della nostra città e lo aspettiamo. Non conosciamo i dettagli delle accuse. Non sappiamo quanto sia legato effettivamente alle cose che sta studiando a Bologna. Certamente come Università di Bologna non entriamo noi nei dettagli di quelli che sono gli orientamenti sessuali dei nostri studenti e non c'entrano nulla probabilmente con per questa fortuna, vicenda. Certo. Certamente. Beh, c'entrano per quanto riguarda l'opinione pubblica egiziana, perché è un argomento che è stato molto usato per screditare questo ragazzo, per parlarne male, mentre la polizia lo tiene detenuto. Appunto, lei dice non conosciamo le motivazioni esatte, però sappiamo, sappiamo invece che il modo in cui è stato trattato la violazione dei diritti di un detenuto carcere preventivo come Zaki. Su questo cosa si può dire? Beh, l'abbiamo detto ieri con migliaia di persone della nostra comunità, studenti, studentesse, tecnici, docenti, ricercatori, cittadini della città di Bologna, dell'Università di Bologna, che si sono mossi in maniera spontanea e non violenta, proprio per rivendicare questo, una richiesta ferma di trasparenza, di completezza dell'informazione e di piena salvaguardia di quelli che sono i diritti fondamentali, innanzitutto quelli di libertà, ma anche quelli del libero pensiero e della possibilità di formarsi un pensiero critico, che sono poi essenzialmente le basi sui quali si basa la nostra università. Mm. Patrick è un nostro studente, è uno studente europeo e noi chiediamo con forza che tutto venga fatto alla luce del sole, con la massima trasparenza e col massimo rispetto dei suoi diritti. Ecco, chiedete con forza anche al governo italiano di essere più attivo, perché questa è la seconda volta che l'Egitto, diciamo così, calpesta i diritti umani di persone italiane, come il caso di Giulio Regeni, che poi è morto, certo, nel caso di questo studente che studiava in Italia. Il governo, certo, dovrebbe fare di più, ritirare ancora una volta l'ambasciatore italiano in Egitto, perché questa è una richiesta che da più parti sta salendo proprio per il caso Zaki. Guardi, noi siamo una grande università internazionale e ci combattiamo con le nostre armi, no? Che sono le armi della conoscenza di massa. E ci siamo mossi con le università italiane, si sono attivate le università europee e continueremo a combattere con le nostre armi. Poi ma si deve fare di più di quello che è stato fatto fino ad ora dal governo italiano? Poi ci sono le istituzioni. Sì. Che sono proposte a definire quelli che sono gli strumenti diplomatici, politici, economici, finanziari per raggiungere questo scopo. Il nostro obiettivo adesso è tenere la barra dritta e le luci accese, certo, in attesa di sabato 22. Siamo a disposizione delle istituzioni, siamo a disposizione col nostro pensiero critico a sviluppare qualsiasi pensiero e discussione e ovviamente appoggeremo tutte le azioni che saranno rese. Certo. Sì, io la ringrazio, prorettore degli esposti. Naturalmente la mia domanda era rivolta, chiaramente l'Università di Bologna non è che può chiedere al governo di fare qualche cosa, si tratta semmai nei confronti dell'Egitto di tenere alta la pressione su questa vicenda. Lei ricordava la data del 22 febbraio, quando si deciderà, l'Egitto dovrà decidere se prorogare ancora una volta i 15 giorni di detenzione preventiva e staremo a vedere. Intanto grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. Buona giornata a lei. È una brutta vicenda questa qua, è una brutta vicenda. Staremo a vedere, la seguiremo naturalmente perché è doveroso farlo. Siamo in ritardo, posso dire mostruoso oggi, sugli orari soliti. Carlo Genta, ciao, ben ritrovato. Ciao Alessio, ciao a tutti. Allora, tutti convocati di oggi, immagino tanta Champions perché si riescono, certo, a giocare. Sì, si torna a giocare con l'Atletico Madrid che riceve i campioni d'Europa del Liverpool, più che mai candidati al BIS, perché sono una squadra pazzesca. In campionato inglese stanno viaggiando a una media impossibile addirittura. Poi domani tocca all'Atalanta, settimana prossima invece per la Juventus a Lione. Parleremo di quello, poi Bartur con Bartoletti e Turrini che come al solito si scateneranno tra di loro e contro di me. Ah, va bene, sei in minoranza, sì, questa fa parte del gioco. Allora, ricordo 314-238-6666 per WhatsAppare fin da adesso per tutti i convocati. Grazie Carlo, appuntamento con te più tardi. Dopo il giro delle 14 diamo la linea al traffico. Torniamo tra pochissimo. Effetto giorno. 13:51 minuti, di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno, nell'orario in cui normalmente sentite Giulia Crivelli raccontarvi giornali internazionali. È un'altra di quelle giornate in cui Giulia è assente giustificata e noi ritroviamo invece Giampaolo Musumeci presente ingiustificato. Ingiustificato. E così so se gli ascoltatori fanno questo cortocircuito. No, in realtà piace a me, poi tu la subisci, no? Ma è bella, è bella, okay, mi piace. Okay. Perché in effetti è il contrappasso. Certo. Esatto, Giulia che oggi non c'è e noi però vogliamo sempre tenere una finestra sulle notizie internazionali con te che ti stai preparando naturalmente per una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. E oggi su che cosa state lavorando? Ma stiamo lavorando su questi documenti che ho portato in studio, li stiamo un po' studiando, è il non paper tecnicamente, insomma sì. È una prima comunione di intenti europea sulla nuova missione Sofia, cambierà anche nome. Il nome l'avevo anche trovato, adesso eccolo qua. E poi i nomi di queste missioni sono sempre evocativi. Evocativo, in realtà Sofia era il nome di questa bimba nata a bordo, salvata con la madre nata a bordo. Giusto. In realtà Sofia poi evoca, per chi ha fatto gli studi classici, anche la saggezza, quindi ci chiederemo se la nuova Sofia sarà un'operazione saggia. Cosa succede? Finalmente l'Europa è d'accordo nel mettere in mare, di fronte alla Libia, vascelli, quindi navi, monitoraggio aereo e eventualmente anche truppe di terra. La nuova operazione si chiamerà Operation EU Active Surveillance, quindi potremo ridurla sorveglianza attiva. Ha trovato un benestare politico da parte di tutti, anche da chi, l'Austria e l'Ungheria, erano molto riluttanti a rimettere in mare le navi perché dicevano attenzione, attirano migranti, quella litania un po' stanca del pull factor, sempre smentito dai dati dal 2012. Sì, perché su questo genere di missioni c'è sempre stata molta polemica, anche l'Italia stessa le ha accettate, poi ha detto no, ci pensiamo noi. Sì. E quindi, In realtà è polemiche, voglio dire, che dovremmo cercare un po' di smontare con i numeri e i dati alla mano. Lo stesso Josep Borrell, il rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, a poche ore fa ha ribadito i dati dicendo e sottolineando che la presenza di qualsiasi vascello di fronte alle coste libiche non è motivo di attrazione, cioè non è una calamita. I migranti partono per altri motivi, da un lato le condizioni climatiche, dall'altro la volontà dei trafficanti e ancora le situazioni sul terreno. Quindi tornando alla missione, sarà una missione corposa, non si sa quando parte. Sofia, quella vecchia, chiude i battenti il 20 marzo. Il 23 marzo si ritrovano i ministri dell'Unione Europea per discutere la concretezza della nuova operazione. La nuova operazione, da quello che sappiamo, si dovrebbe posizionare geograficamente più verso la Cirenaica, quindi più verso Bengasi, e qua iniziano le grandi criticità, perché nell'idea probabilmente di chi ha steso questo primo foglio di lavoro, chiamiamolo così, c'era l'idea di bloccare l'invio di armi a Bengasi. E quindi i mercenari russi, quindi il supporto dell'Egitto e degli Emirati Arabi Uniti. Però immediatamente, anche guardando la carta geografica, uno può prevedere, senza fare chiacchiere da bar, un bel volo da Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, che atterra al Cairo e via terra porta armamenti, come già probabilmente succede in queste ore. Quindi ci sono delle grosse criticità, soprattutto per l'intervento a terra, per esempio, no? Sapete che anche il governo italiano si è espresso in maniera piuttosto ferma, anche i nostri microfoni con Maglio Di Stefano, un'Italia in prima linea sotto cappello dell'Unione Europea, quindi boots on the ground, come dicono gli analisti. Però con tre condizioni. Da un lato una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, c'è la Russia di mezzo in maniera occulta, quindi il veto è praticamente garantito. Assicurato. Cessate il fuoco permanente, o più o meno abbastanza stabile, e per il momento non si è visto, invito dei libici, e qua la domanda è, ma quali libici ci inviterebbero? Quindi diciamo c'è una costruzione molto complessa che potrebbe essere messa in campo e in mare, con tante criticità. Proveremo quest'oggi a capire cosa può funzionare e cosa no, con una serie di ospiti che non vi anticipo ovviamente. Va bene, grazie Giampaolo, appuntamento con te naturalmente con Nessun Luogo Lontano. 16, avevamo annunciato anche un'intervista al commissario degli affari economici Paolo Gentiloni, la sentirete sicuramente in Focus Economia per il taglio economico della notizia. Intervista del nostro inviato a Bruxelles, da Bruxelles arrivano tutte queste notizie di cui abbiamo appena parlato. Noi ci fermiamo qua con Laura Faggini in redazione, Maria Bernardi in regia, ad Alessio Maurizi, l'auguro di una buona giornata, ci risentiamo tra poco gli aggiornamenti delle 14.